4 mattino. Sono imprenditore, sto andando a Milano a lavorare come tutte le mattine. Sono un po' arrabbiato oggi, ho studiato la manovra Cura Italia, questo famoso bazooka di liquidità. Francamente è un disastro, te lo dico da imprenditore, e i tempi di rimborso sono troppo corti, 6 anni sono troppo pochi, ma soprattutto quello che non si riesce a capire è la questione tributaria. Ci costringono ad andare ancora una volta nelle banche e non si sospendono i tributi. I tributi vanno sospesi per tutto il 2020. Buongiorno da Amsterdam, qui i parchi pieni di gente. Quello che dice Gallera è errato, i militari erano già nella Bergamasca il 27 di febbraio, venerdì 27 febbraio, li ho visti io e ce n'erano abbastanza. Allora, questo, su quest'ultimo elemento, è un elemento fattuale, non mi risulta, avremo comunque ospite Gallera alle 8.45 e gli chiederemo conto anche di questo, chiederemo informazioni anche su questo. Sul tema del decreto, che dire, anche di questo parleremo più avanti, avremo il presidente di Federlegno che ha espresso dubbi simili su questo decreto, su come è strutturato e anche appunto sulla parte burocratica, che è un po' la preoccupazione di tutti. A partire dal Sole 24 Ore, che parla di corsa a ostacoli per le imprese nella sua apertura di oggi. Ad Amsterdam, parchi pieni invece. Vedremo come andranno le cose là, Sono le 7:19 minuti, è la seconda parte di 24 mattino di mercoledì 8 aprile. Al microfono sempre Simone Spezia ed è la parte, come ben sapete, dedicata alla rassegna stampa. Vi aspetto come sempre al 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche e soprattutto audio per sentire la vostra voce. E come sempre siamo in diretta, poi a volte non ve lo ricordo in questo periodo, dando per scontato che lo sappiate, però siamo sempre in diretta su Facebook. Se volete anche vedere, ma se avete questa curiosità, oppure se preferite appunto questo mezzo, ci trovate là sulla pagina Facebook di 24 mattino. Andate là, mettete un bel mi piace, semplicemente perché vi serve poi per avere la notifica quando siamo in diretta, se siete su Facebook in quel momento, perché poi ci sono anche altri contenuti che aggiungiamo là sui nostri social. Ci trovate anche là, oltre che su Twitter, 24 mattino è sempre l'account. Dunque, la rassegna stampa con i giornali che si dividono un po' su quelli, sulle aperture, come sempre in questo periodo. C'è chi sceglie il tema della riapertura, delle ipotesi di riapertura, dato che ieri poi ne ha parlato il ministro Speranza. Fase 2, turni per la riapertura, è il titolo del Corriere della Sera. Riaperture, prima le aziende, è quello del Messaggero. Scelte diverse vengono fatte per esempio da Avvenire, che titola tutte le vittime del virus, ancora troppi morti ma scende la progressione dei contagi, diminuiscono i ricoveri, più guariti, e poi c'è tutto il tema naturalmente economico. Si concentrano invece sia il Fatto Quotidiano che il Manifesto sulle responsabilità che attribuiscono alla Regione Lombardia per quello che è successo in particolare nella Bergamasca. Il trio leghista del caos di Alzano è il titolo del Fatto Quotidiano. I tre RAS della sanità che devono spiegare il contagio sfuggito dal pronto soccorso il 23 febbraio. E il Manifesto titola con foto della conferenza stampa di ieri «Il sonno della Regione». Anche La Repubblica è in parte concentrata su questo, perché parla di mani pulite sul Trivulzio, e qua per chi, insomma, si parla del più albergo Trivulzio, ormai lo sapete, di quello che è successo, questa residenza per anziani molto nota a Milano, che nella quale sono state nascoste sostanzialmente, sarebbero state nascoste le vittime di Covid-19, mani pulite sul Trivulzio perché è da tangenti sulla Pio Albergo Trivulzio che partì Tangentopoli, e questo è il titolo della Repubblica che ha lanciato un po' la questione nella giornata, se non vado errato, di domenica o di lunedì, e poi la sta riprendendo tutti i giorni. Studio sul virus finirà il 19 maggio, è il titolo del quotidiano nazionale, sono le previsioni per l'Italia dei super esperti americani, e ovviamente anche con i dati di ieri sul crollo dei nuovi contagi. Anche La Stampa dedica l'apertura al piano di Conte per riaprire in due tappe, prima le aziende e poi i cittadini. Gli altri giornali: ballano sui morti, è il titolo del giornale, dai soldi alla fase 2, sul decreto ancora liti e bugie, le banche che dicono che così sarà un pasticcio, e l'Europa prigioniera dei falchi, scrive il giornale. La Verità, anche qua molto critica, l'aiuto di Conte è un mutuo da pagare, il premier parla di intervento poderoso per le aziende, ma si tratta di prestiti che serviranno in larga misura a saldare le tasse. Il picco della stupidità è il titolo di Libero, perché su cosa? Qual è il tema? Una nave dell'ONG tedesca con 150 persone a bordo che ha largo di Lampedusa e scrive Libero: anneghiamo nei problemi ma ripeschiamo immigrati. Il Sole 24 Ore già si diceva, no? Liquidità, corsa ad ostacoli per le imprese, nelle bozze automatismi minimi e tante variabili, e quindi questo è il grande tema, come scrive poi Marco Nado nel suo commento, conta il fattore tempo. Infine la Gazzetta dello Sport, e ve la cito non a caso perché il campionato sta pensando a ripartire, mentre per esempio il campionato di basket ha deciso di fermare tutto, il campionato di calcio, che a fine maggio in determinate condizioni si possa riprendere. Ieri citavamo il caso della Bundesliga, che appunto si sta preparando. Cautela del governo, ma per fine maggio si potrebbe giocare a porte chiuse. Magari arriveremo anche su questo. Oggi nella parte, insomma, che dedichiamo a un po' di cronache territoriali, un po' di cronache laterali, vi voglio portare a fare un giro delle regioni. In questo caso non solamente la regione Lombardia, ma un po' come stanno andando le cose nelle altre. Il giornale ci porta per esempio nella regione Lazio, quella guidata dal segretario del Partito Democratico, Zingaretti. Zingaretti si fa raggirare sulle mascherine fantasma. Siamo a pagina 10 del giornale, in un pezzo firmato da Antonella Aldrighetti. Di cosa si parla? Si parla, insomma, di delle persone legate al centro-sinistra e di come stanno gestendo almeno in parte l'emergenza. Ci sono i sindaci che, chiaro, sono meno coinvolti. In questo caso si citano Dario Nardella, il sindaco di Firenze, Beppe Sala, il sindaco di Milano, con Nardella che si è impegnato a consegnare mascherine in tutta la città. Nella nostra città, dice, una misura molto impegnativa, la consegna sta a 250 al giorno, e se alcune sono state consegnate sfuse si tratta dello sbaglio di alcuni volontari. Sala non riesce a farsi, scrive il giornale, che il link per richiedere il buono spesa sul portale del comune funzioni, neppure a scartamento ridotto. Sono oltre due giorni che l'accesso al modulo per richiedere l'aiuto economico è bloccato. Ma la storia forte di questa pagina è sicuramente quella delle mascherine. Vi ricorderete che ne abbiamo parlato, no? Di questa gara fatta dalla Regione Lazio per ottenere 8 milioni e mezzo di mascherine, una gara vinta, una gara internazionale tra l'altro. Ebbene, queste mascherine sostanzialmente, a quanto scrive il giornale, non sono mai state consegnate. Nicola Zingaretti, che troppo spesso spacconeggia, scrive Antonella Aldrighetti, quasi fosse il primo della classe, consigli e insegnamenti, è stato raggirato da una piccola SRL alla quale aveva ingenuamente richiesto tre cariche differenti di dispositivi di protezione. Le mascherine non sono arrivate alle scadenze prefissate. La Regione Lazio ha deciso di revocare l'affidamento, malgrado abbia già anticipato all'azienda Eco.tech il 50% dell'intera commessa. Tirando le somme, in definitiva, chiude il pezzo, il Lazio rimane senza mascherine in quanto l'esecutivo ha revocato il mandato d'acquisto, rimane solo il tema di rientrare dei soldi. Cronache da altre regioni, dunque la Lombardia, c'è tutta la questione che ha a che fare con Alzano, Nembro, e tutta l'area di Bergamo. E qua, insomma, il giornale dal quale partiamo è il Fatto Quotidiano, a pagina 4, lo avete sentito, lo mette anche in apertura, e cita tre personaggi che, stando al fatto, sono direttamente legati alla Lega: sono il direttore generale della ASL di Bergamo Est, il direttore sanitario e il direttore medico dell'ospedale di Alzano, tutti e tre, secondo il Fatto Quotidiano, appunto legati alla Lega. E c'è anche un po' una ricostruzione degli errori che sono stati fatti, e si presume che siano stati fatti, nell'ospedale di Alzano, perché i primi due pazienti Covid-19, almeno ufficialmente, sono un ex camionista di Nembro e un pensionato di Villa di Serio, sono ricoverati nel reparto medicina interna, terzo piano. Saranno i primi due morti della zona di Bergamo. Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio, per la prima volta, le infermiere e personale sanitario del reparto medicina indossano le mascherine FFP2. Da Lodigiano sono già arrivate le brutte notizie sull'ingresso in Nord Italia del coronavirus. Codogno è già stata dichiarata zona rossa. Il 21 febbraio Ravelli viene sottoposto al tampone e risulterà positivo al Covid-19. L'esito arriverà il 22, e poi la storia che in parte già conosciamo. Non viene avvisato nessuno, non i parenti, non il personale dell'ospedale, non il Ministero della Salute. Domenica 23 nel pomeriggio viene chiuso il pronto soccorso, ma solo per poche ore. Poi riapre senza alcuna sanificazione, senza la creazione di percorsi e ambienti differenziati per i sospetti da Covid-19. Lunedì mattina l'ospedale riprende la vita feriale di sempre. Centro prelievi affollato di gente, in maggior parte anziani. Interventi chirurgici programmati che si susseguono come se nulla fosse accaduto. Nei giorni seguenti, l'ecatombe. Muoiono molti dei pazienti, muoiono tanti familiari dei ricoverati venuti in visita nei giorni precedenti. Si ammalano il primario e giù medici, infermieri, portantini, pazienti dimessi e rimandati a casa, parenti e visitatori. Alzano raggiunge i 170 contagi, Nembro i 200. L'ospedale era stato riaperto. Con un'ipotesi ulteriore, in realtà, che, se vogliamo, in parte alleggerisce non queste responsabilità, ma alleggerisce in genere le responsabilità per quanto riguarda la zona della Bergamasca. Ossia il fatto che l'ombra del virus si sia allungata su questa zona già a fine del 2019, come scrive il quotidiano Avvenire con Marco Birolini da Bergamo. Una storia che va riscritta probabilmente, perché, insomma, nelle scorse ore, lo aveva già detto nelle scorse settimane, il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri, e però, Avvenire ha rivelato nella settimana scorsa che tra i primi di gennaio e a metà febbraio, nella zona di Cividate, il medico di base Pietro Poidomani aveva prescritto una cinquantina di radiografie al torace per sospette polmoniti, con referto positivo nel 70% dei casi. Era un precoce focolaio del temuto virus venuto dalla Cina? Ci sono altri elementi che lo fanno pensare. Una spia d'allarme si era forse già accesa addirittura in ottobre a Cerete, Alta Valseriana, con il caso di un'intera famiglia contagiata da una polmonite virale, ma nessuno la notò. In ottobre, stiamo parlando di ottobre. Altre nuove segnalazioni, si aggiungono altre tessere al tragico puzzle del contagio, retrodatando ulteriormente le possibili tracce di Covid-19. A gennaio, racconta un medico di base a Brembate Filago, ci fu un aumento di polmoniti rispetto agli anni scorsi. E lo stesso medico, Vincenzo Ansanelli, dice: il 27 dicembre ho visitato due coniugi di Brembate, il marito accusava problemi respiratori, la donna aveva la tosse, auscultai entrambi, la radiografia confermò, alla moglie era una polmonite per entrambi, alla moglie bastarono 2 settimane di antibiotici per guarire, il marito iniziò a stare meglio dopo 10 giorni di iniezioni, un doppio caso più unico che raro, non ricordo nulla di simile in quasi 40 anni di carriera, e siamo alla fine di dicembre. Altre questioni che hanno a che fare con le regioni ci portano al quotidiano nazionale, la strategia della Toscana, che qua insomma sta un po' cambiando, la stretta sulla quarantena è stata varata ieri con un'ordinanza dal presidente della regione Rossi, il quale dice in sostanza ci sono troppi contagi all'interno della famiglia. E dunque che cosa si fa? I pazienti, cioè o meglio i positivi a Covid-19, è meglio se vanno in alberghi sanitari. Dunque ha fatto un accordo con gli albergatori per organizzare un'assistenza alberghiera, per così dire, per i pazienti diciamo con pochi sintomi e che possono in quei luoghi ricevere un'assistenza migliore. Non è obbligatorio, però l'invito è ad accettare l'offerta. Chi poi volesse rimanere a casa dovrà firmare una dichiarazione nella quale rinuncia al trattamento proposto. Vi segnalo ancora la paura del Piemonte, lo scrive la stampa a pagina 11, i contagi in crescita e mortalità doppia, il pezzo lo firma Andrea Rossi da Torino e ci dà qualche elemento importante sul Piemonte del quale già ieri abbiamo parlato e che sarà da tenere sott'occhio. E infine, vabbè, insomma, quello che succede a Napoli con i pizzaioli in rivolta, perché in sostanza non solo devono star chiusi, e questo succede in tutta Italia, e però non possono nemmeno fare le consegne a casa perché l'ordinanza varata dal presidente della regione De Luca è rigorosissima. E dunque protesta tra gli altri Gino Sorbillo, l'avete sentito in questi giorni spesso ospite di Alessandro Milan, no? Su questa storia degli italiani che improvvisamente diventano tutti pizzaioli, esauriscono il lievito di birra e la farina praticamente in tutti i supermercati. Dice Gino Sorbillo: ma cavoli, a Tokyo il mio forno è rimasto sempre aperto, lo è anche ora e consegna pizza. A Milano ieri ho consegnato 150 pizze, ma è possibile che proprio in Campania non posso consegnare nemmeno una pizza? Una pausa. Mattino. Le famiglie hanno bisogno di avere i soldi subito. Per fare cosa? Cioè, la gente, se le famiglie hanno bisogno di avere i soldi subito per pagare i debiti, sospendiamo i debiti, spostiamo i debiti, diamo alle famiglie solo ed esclusivamente i soldi che servono per mangiare, punto. Io proporrei di abolire l'espressione Europa Unita, perché è una grandissima falsità, nonché un'ipocrisia. E va bene, le vostre opinioni, il tema delle famiglie, guardate, qua non è il problema delle famiglie, qua è il problema delle imprese e a catena delle famiglie, cioè quello che bisogna fare è dare liquidità al più presto alle imprese perché possano pagare i dipendenti da una parte e pagare i fornitori dall'altra, i quali fornitori a loro volta hanno dei dipendenti che sono da pagare, e quindi quello che serve è tenere in piedi il paese, molto semplicemente. Caro Paolo Mieli, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Siamo al giorno della svolta, mi sembra. Oggi pare anche a me. I toni dei giornali sono molto più ottimisti. A proposito di quello che stavi dicendo tu, mi ha colpito il fondo di Marco Nado sul Sole 24 Ore, dove dice: il problema è non è solo quando arriverà l'impresa, ma quanti soldi, ma quando. Secondo la situazione finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, che sono la vera spina dorsale del nostro sistema produttivo più che in ogni altro paese, era già delicata prima che il virus bloccasse di colpo l'economia, e quindi è da qui che bisogna ripartire. Però ti ripeto, gli indici ci dicono che la discesa è già iniziata, si può essere ragionevolmente ottimisti. Si capisce leggendo tra le righe giornali che dopo Pasqua verranno liberalizzate alcune attività produttive e la fine del lockdown italiano sarà dopo il 1° maggio. Sì. È tenuta prudenzialmente questa data perché si vuole evitare che fra il picnic perché poi ci sono di mezzo anche sabato e domenica, durerebbe dal 24 aprile al 2 maggio, insomma una cosa, e quindi è d'obbligo. Però già nelle città si avverte una certa rilassatezza, tra l'altro fra le notizie è stato dimesso Bertolaso che è tornato alla sua attività, è nato la figlia del paziente 1 di Mattia, ve lo ricordate, quel paziente è nato, il padre e la madre pur contagiati dal Covid sono liberi, tranquilli, sì. Si possono riabbracciare, insomma i giornali sono giustamente pieni di ottimismo, anche se i più saggi, soprattutto i medici, dicono attenti, attenti che questo è il mese, occhio a non rilassarvi troppo. È più pericoloso adesso, sì, ma non solo per la rilassatezza, perché questo è il mese in agguato, ne sappiamo troppo poco di questo virus per consentirci di... così di fare i furbi e di aggirare sì. Senti Paolo, in tutto ciò sembra tornare quasi alla normalità per così dire, ma con sempre il coronavirus sullo sfondo, anche la politica con delle discussioni che passano ovviamente dall'attuale decreto e dalle polemiche tra maggioranza e opposizione e arrivano fino allo scontro tra lo Stato e la Regione Lombardia ancora una volta, no? E anche lì tutto sembra tornato a prima. La destra si accanisce contro Conte, i giornali di destra sono pieni di notizie contro Conte. Lina Palmerini su Sole 24 Ore dice che con la fase 2 tornano le manovre anti-Conte, però la sinistra anche riprende i toni di tanti anni fa o anche più recenti. Il trio leghista, tutta il virus è colpa della Lega, il trio leghista del caos di Alzano, sì. Ci sono i RAS della sanità leghisti, questo è il Fatto Quotidiano. Poi il manifesto, il titolo del manifesto, no? Il sonno della regione, l'abbiamo citato. Il sonno della regione, l'ho visto. E poi c'è il caso Trivulzio, evoca, perché da lì, come ricorderete sì. tutti, nel 1992 partì l'inchiesta di Mani Pulite e per un singolare ricorso storico la commissione d'inchiesta su quello che è accaduto nel Trivulzio, dove non sono stati tenuti in coda la Bagina, un ospizio per vecchi, per gli anziani sì. a Milano, il principale a Milano e forse in tutta Italia, dicevo, a presiedere la commissione d'inchiesta è stato messo Gherardo Colombo, cioè il giudice, adesso non è più giudice, sì. ma che all'epoca, 28 anni fa, partecipò con Di Pietro all'inchiesta su Mario Chiesa e le malefatte della Bagina. Matteo Renzi, sempre su Repubblica, con intervista a Repubblica, propone che questa diventi un'inchiesta nazionale, che venga portata in Parlamento e insomma sì. tra manovre contro Conte e manovre contro Fontana, la Lega, tutti hanno degli imbarazzi. Sì. Se leggi con attenzione gli articoli sui giornali, la destra si rende conto che cercare di far cadere Conte in una situazione del genere, mentre il lockdown durerà ancora un mese, è una stupidaggine. Ma anche la sinistra, i demoni, i loro cadaveri nell'armadio, perché rimane quella campagna, non ci vuole chiusura, la campagna che fecero i sindaci di Milano e Bergamo, e anche di Bergamo. Sì, dobbiamo correre, dobbiamo lavorare. Sì. E quindi io lo dico sempre, troppo presto per fare bilance, ed è sbagliato ripresentarsi ai nastri di partenza con le stesse idee, le stesse battaglie. Mancano l'appello le sardine, ti avverto. Non ci sono ancora, verranno, torneranno. Ti dirò, so che la cosa ti dispiacerà, ma non ne sento la mancanza, devo essere sincero. Va bene, allora chiudo qui questo collegamento telefonico perché sei indegno. Vabbè, comunque, sì. Dicevo, tutto riprende come allora. Non nel mondo, perché mi ha colpito un'altra cosa, Johnson sembra stare meglio, ma giustamente Beppe Severgnini sul Corriere della Sera sottolinea come l'Inghilterra si sia unita a Johnson, cioè non hanno sfruttato l'occasione per dileggiarlo, anche perché come è noto Johnson all'inizio aveva sottovalutato la potenza del virus. In compenso mi è colpito che ci ha pensato l'Italia, cioè in Italia sono fiorite invece, è fiorito quel tipo di dileggio contro Johnson, per cui gli inglesi si uniscono nel momento del bisogno, invece gli italiani, anche i guai di Johnson diventano occasione di scherzo e di leggio sui social. Sì, devo dirti la verità che anche sui social, insomma, anche ho visto anche qualche account inglese che prendeva in giro Johnson, perché là il tema, no? La partenza con l'immunità di gregge e poi l'approdo a questo, che ci vogliamo fare, così è. Però il titolo di Severnini è che nella sostanza anche i nemici fanno tifo per Johnson. E lui guarda soprattutto alla politica. La politica non ha cercato di approfittarne, anche perché si è scoperto che il sistema inglese quasi non prevede che il capo del governo, che il capo del governo possa ammalarsi o avere simili incidenti di percorso. Affida tutti i poteri a un numero due, ma tutti per modo di dire, perché poi i più delicati non gliela affidano, non si capisce come sia la catena di comando in un momento come l'attuale. Però ci auguriamo che Johnson stia meglio. Sul Corriere sempre un'intervista di Paolo Valentini a Schröder, l'ex cancelliere, che dice che sarebbe giusto dire sì agli eurobond. Trump sta per affrontare il momento peggiore, tutti prevedono catastrofi negli Stati Uniti, e lui se la prende con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in vero lenta, su questo bisogna anche assolutamente, in certi casi anche poco chiara, però poco insomma chiara. Poco chiara non eccediamo in critica, perché dobbiamo sottrarre per primi noi a questo vizio di cercare immediatamente il colpevole, però Trump insinua il dubbio che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sia un po' abbia qualche tenerezza nei confronti della Cina, e quindi abbia ritardato a vedere per questo motivo. E dall'altra parte c'è chi ovviamente accusa Trump invece di dire tutto questo per coprire i suoi ritardi, e quindi appunto torniamo alla normalità anche da quelle parti, mi pare. Abbiamo il traffico. "24 Mattino". Prima di passare ad altro, vi volevo anche segnalare che ovviamente oggi sul Sole 24 Ore trovate tutte le pagine dedicate a quali sono gli ostacoli, appunto, sul tema della liquidità alle imprese, e poi ne parleremo più avanti, dal nodo della notifica del via libera dell'Unione Europea al 100% delle garanzie solo fino a 25.000 euro d'importo e via dicendo. E poi con il Sole c'è una guida a tutti i provvedimenti per le famiglie, appunto, che riguarda l'emergenza coronavirus, oggi con il Sole 24 Ore. Caro Paolo, respiriamo con qualcosa d'altro, cambiamo anche un po' argomento e iniziamo da oggi. Anche i giornali cambiano un po', perché i giornali cominciano a ripubblicare notizie dall'Italia e dal mondo che sono di un qualche interesse, che non hanno a che fare con il coronavirus. Insomma, oggi si può leggere dell'altro sui giornali. Ti ha colpito qualcosa? Guarda, partirei da questioni che hanno a che fare con la giustizia, dall'estero e dall'Italia. Allora, la notizia è arrivata in realtà ieri mattina all'alba, l'abbiamo data, l'avete sentita nei GR, ma oggi i giornali approfondiscono, no? L'assoluzione del cardinale George Pell. Anche perché oggi c'è una novità, nel senso che il Papa ieri, sia pure senza nominare il cardinale Pell, però ha fatto una evidente allusione dicendo che si stringe a lui, che soffre con lui e che è stata un'ingiustizia quella che ha subito. Il Calvario lo definisce Renato Farina sul Libero. Sul Foglio Giuliano Ferrara, questi sono ex stimatori di Pell, anzi l'hanno difeso durante tutta questa lunga e tortuosa vicenda. Giuliano Ferrara addirittura lo paragona al caso Dreyfus, e lui, prosciolto, era già stato condannato dai media, in realtà dai media, e si è ritirato in un monastero. voglio ricordare, per chi non lo ricordasse, che era accusato di pedofilia, aveva avuto tante circostanziate accuse, ma poi un suo collaboratore aveva raccontato come nei giorni in cui avrebbe commesso i fatti specifici di cui era accusato non è rimasto solo neanche un nanosecondo, e quindi questa testimonianza arrivata all'alta corte gli ha regalato questa assoluzione definitiva. Definitiva, sì. Prego. Sì, era il capo economico del Vaticano dal febbraio del 2019, cioè 78 anni, e insomma era un personaggio, un numero due, ecco, del Vaticano, molto, molto amato da Papa Bergoglio, che ieri ha usato le parole che ti dicevo. Sì. Ma fra i risarcimenti non ti ha colpito anche in Italia quello di, per Bruno Contrada? Sì, per Bruno Contrada, certo, certo. Molti giornali ne mettono vicine le due notizie, perché lui era stato il capo nel 73 della squadra mobile di Palermo, poi nell'82 aveva iniziato a lavorare con SISD e poi lo avevano accusato di connivenza con la mafia. Adesso gli vengono riconosciuti 667 mila euro per 8 anni di detenzione, ma lui dice: io ho 88 anni, quasi 90 anni, lì nelle foto seduto in poltrona, sembra anche più vecchio dei suoi 88 anni, insomma ci sono persone che gli 88 anni se li portano meglio, anche se poveretto ha trascorso molti anni in carcere. Dice: 88 anni, ma che me ne faccio di questi soldi? Sì. Era stato accusato, come ho detto, di essere dalla parte dei mafiosi. Anche questa vicenda se ne occupano, sì, tutti coloro, Filippo Facci sul Libro, tutti coloro che l'avevano sempre difeso, il Foglio, sono anche qui. Si ricongiunge ultimamente fra il Foglio e i giornali di destra, siccome il Foglio è molto contro Trump, molto contro Johnson, sì, e soprattutto molto molto contro Salvini, c'era stato un certo divorzio. Adesso per i cultori di queste minuzie, invece, oggi su Pell e Contrada si ricongiungono. Sì. Ascolta Paolo, c'è sempre all'ombra del coronavirus, ma non come, per così dire, notizia principale, c'è la curiosa vicenda di quel che avviene in Israele, dove, allora, quasi, non dico nel silenzio, però insomma un po' sotto traccia, con questo virus che avanzava eccetera eccetera, il governo si è fatto, e si è fatto con questa strana formula con Gantz e Netanyahu, che poi si scambieranno di posto. No? Fatto della staffetta, fu fatto anche a suo tempo negli anni 80 fra De Mita e Craxi qui in Italia, ma non funzionò, perché questi patti della staffetta poi al momento decisivo quello che deve subentrare non riesce mai a cogliere. Però vedremo. Per adesso, sì, Netanyahu è rimasto al governo, ma giustamente hai colto la notizia surreale, la coglie anche Giordano Stabile sulla Stampa, che ieri, per festeggiare il patto, il generale Gantz è andato nella residenza del premier israeliano, che è chiuso lì per la quarantena, ed è restato nel giardino a distanza dalla finestra aperta dello studio, e i due, per contrarre un patto importantissimo, i due si sono sfidati dicendosi parole di fuoco 3 volte alle elezioni nell'ultimo anno, e invece urlando dalla finestra al giardino si sono messi d'accordo e hanno trovato un accordo per annettere a Israele una parte della West Bank, cioè dei territori palestinesi. Ma quello che colpisce i giornali israeliani, e che, ripeto, ha colto Stabile sulla Stampa, è di queste trattative di governo per una cosa delicatissima, perché è come fare un accordo fra Salvini e Prodi, non, sì, lo so, in Italia, cioè mettere due opposti che se ne sono detti di tutti i colori, e però dalla finestra, un giardino, che incredibile che non potessero farla al telefono, soprattutto su questioni così delicate, insomma. Però insomma, ma hanno ritenuto di dare una plastica evidenza a quello che stavano facendo. Secondo me è un rito studiato quello di urlare dalla finestra con Netanyahu, che diceva: come, cosa, cosa hai, capire meglio. Cosa hai detto? Una scena davvero unica e che rimarrà nella storia non solo di Israele. Allora Paolo, abbiamo ancora diciamo un paio di minuti. Hai notizie, sì, recenti dai reali? Tu che li ami, sì, tanto. I reali. Vitali sono i due rampolli, insomma, di Carlo, sì. Il rampollo di Carlo e sua moglie. Durante questa emergenza del coronavirus se ne sono andati in giro, prima in Canada, poi negli Stati Uniti, ma nessuno li vuole perché loro scelgono dei posti esclusivi per andare a abitare e sì. Intorno si scocciano che arrivino fotografi, poi lei è un po' una ragazza, Meghan, un po' esibizionista. E quindi c'è stata questa. Io l'ho seguita perché. Beh, certo, perché come noto, tra l'altro, sei un appassionato di questa vicenda. Per queste vicende che mi divertono. E diciamo, la cosa buffa, tra l'altro, lui ha avuto più volte la tentazione di tornare in Inghilterra perché suo padre si è ammalato di Covid. E lei glielo ha impedito, e lei gliel'ha impedito, no? Vedo che la segui anche Beh, tu, sì, però, rinforzando il concetto della, no, della nuora cattiva che non che impedisce al figlio di tornare da... Guarda, non me ne ero accorto che fossi anche tu un appassionato. Allora, entrambi la seguiamo, però non possiamo annoiare. No, sicuramente. Adesso finita la rassegna, magari ci sentiamo un attimo e facciamo, insomma, un 5 e minuti di chiacchiere di dettaglio. Allora, grazie anche per oggi, Paolo Mieli. Ci ritroviamo ovviamente venerdì. Noi ci fermiamo, c'è cioè GR24, ci ritroviamo subito dopo. Tra poco con Maria Latella, tre gli argomenti che affronteremo. Il primo, la questione di queste maledette mascherine che ci sono, non ci sono, costano un patrimonio, quando le cerchiamo lo faremo con l'associazione che rappresenta le farmacie. Parleremo del decreto con il presidente di Federlegno che già ieri ha sottolineato un po' di problemi contenuti quantomeno nelle bozze perché il testo definitivo non ce l'abbiamo. E poi Giulio Gallera, assessore alla salute della regione Lombardia, per fare un punto e anche per chiarire qualche dubbio sulla gestione dell'emergenza che viene sollevato in queste ore. GR, a tra poco.